Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Spazzatura a premi è solo una delle ultime trovate per cercare di affrontare una sfida epocale, quella dei rifiuti. Ne produciamo troppi e spesso li gestiamo male, ma alla fine, come sapete, fanno notizia solo quando vengono abbandonati per strada, mentre forse questo non accadrebbe se facessero notizia prima. Sta di fatto che intorno alla gestione intelligente dei rifiuti stanno nascendo moltissimi progetti intelligenti. C'è chi si è inventato modi del tutto nuovi per riciclare, oppure per riutilizzarli, ancora meglio. C'è chi ha progettato cassonetti intelligenti che segnalano agli operatori ecologici quando è venuto il momento di svuotarli, e qui a Smart City vi racconteremo di molti di questi progetti. E questa sera iniziamo con uno dei più originali e forse anche meglio riusciti. Ce ne parla Chiara Albicocco, che per l'occasione ci porta a Pisa. Sentite. Una tessera raccoglie i punti con una serie di premi in palio particolari e utilissimi. È la trovata dell'amministrazione comunale di Pisa, che da un paio d'anni ha introdotto un sistema innovativo per incentivare la raccolta differenziata. I premi, dicevo, sono allettanti. Sono sconti sulla TARSU, che è la tassa sui rifiuti solidi urbani. Più riciclo, meno tasse pago. Complimenti, Eligi. Grazie, buonasera. Buonasera a Federico Eligi, lei è assessore all'ambiente del comune di Pisa ed è un po' il fautore di tutta questa bella trovata, ce la racconti? Sì, noi siamo partiti esattamente dal 1° gennaio 2010, siamo partiti diciamo come una scommessa, nel senso che noi abbiamo mandato una lettera ai nostri concittadini dicendogli che presso le due stazioni ecologiche fisse che abbiamo in città, chi si recava lì e conferiva i rifiuti pesandoli con una card dedicata avrebbe avuto alla fine dell'anno uno sconto massimo del 30%. Il meccanismo che abbiamo presentato è il seguente: se aumenta la raccolta differenziata noi spendiamo meno, ovviamente in termini di trasporto e di costo di smaltimento. Questo risparmio, invece di metterlo nelle casse del comune, lo giriamo ai nostri concittadini che hanno certificato la loro produzione dei rifiuti. In che senso? Noi, quando si recano i cittadini, si sono recati alle nostre stazioni ecologiche, hanno trovato un operatore. L'operatore ovviamente ha preso la roba, l'ha pesata e ha rilasciato uno scontrino. Ecco, questo per noi significa che la qualità di quella raccolta differenziata è controllata e di conseguenza è tutto guadagno. Ecco, noi questo risparmio che abbiamo avuto, che arriva fino a un massimo del 30% della bolletta TARSU, l'abbiamo ribaltato esattamente ai nostri cittadini che hanno cambiato le loro abitudini, gli abbiamo chiesto un sacrificio e lo ricompensiamo. La cosa intelligente è anche che va a peso questo meccanismo, quindi più un oggetto è pesante, ma soprattutto più un oggetto è pericoloso ed è velenoso, più punti acquisisco sulla mia card. Quindi diciamo che l'incentivo è proprio a riciclare le cose che sono più dannose per l'ambiente. Sì, il meccanismo è proprio questo. Noi abbiamo dato un maggior punteggio a quei rifiuti che ovviamente o il costo di smaltimento è molto alto o dall'altra parte è molto dannoso per l'ambiente. Devo dire che abbiamo avuto una risposta inaspettata, tant'è che nel gennaio 2010, appena partita la campagna, avendo le file fuori da queste due stazioni ecologiche, abbiamo fatto un passo in più. Abbiamo acquistato 3 stazioni ecologiche mobili. Voi fate presente di vedere un container che viene spostato di via in via, di quartiere in quartiere, e offre questo servizio di raccolta all'interno dei quartieri. E questo è stato ancora, ha avuto ancora più gradimento della stazione ecologica fissa. Ovviamente alle stazioni ecologiche mobili possono essere portati tutti i rifiuti, di conseguenza aumentiamo notevolmente l'offerta di raccolta differenziata. Siccome stiamo parlando appunto di comportamenti intelligenti, avete anche notato, siccome è attivo da un po' di tempo questa cosa, i comportamenti peculiari di alcuni cittadini, ad esempio dei pensionati? magari noi facciamo campagne sui giovani, essendo qui una città anche universitaria con una grande presenza di studenti, però ecco, se devo dare un dato, ho visto che il maggior contributo sulla raccolta differenziata viene soprattutto dagli anziani, che si sono spinti e hanno, come dire, cambiato radicalmente le loro abitudini, diciamo che sì, negli anni che avevano accumulato, e si sono orientati verso questo nuovo modo di raccolta. E noi siamo accorti perché la maggiore raccolta la abbiamo soprattutto, come dicevo, sulle stazioni mobili la mattina nei quartieri più popolari. Ecco, in conclusione, assessore, un dato per farci capire: l'anno scorso, si è appena concluso il 2011, più o meno il pisano più riciclone quanto ha risparmiato nella tassa? 208 euro. Ah. È perché praticamente noi abbiamo stanziato, il primo anno abbiamo fatto una previsione di risparmiare, grazie all'aumento di raccolta differenziata, 150.000 euro, e l'abbiamo distribuiti fra i cittadini che avevano aderito alla questo tipo di raccolta. Abbiamo fatto una classifica e alla prima fascia abbiamo riconosciuto uno sconto pari al 30% della, noi abbiamo ancora la Tarsu, della Tarsu. Di conseguenza, faccio un esempio, come il caso di questo nostro concittadino che è arrivato primo, ma come dire, non è che il secondo ha preso meno, diciamo, nella prima fascia sono rientrati nel 2010 circa un migliaio di utenti, che un migliaio di utenti hanno avuto uno sconto pari al 30% della Tarsu. Nel 2011 l'abbiamo corretta per i nuclei monofamiliari, nel senso che, essendo basata sulla quantità, alcuni cittadini ci hanno detto: vabbè, ma io sono solo, ho una produzione di rifiuti sicuramente più bassa rispetto a una famiglia. Allora abbiamo inserito un moltiplicatore per permettere anche ai nuclei familiari più piccoli e monocellulari di arrivare allo sconto. Cioè il rifiuto vale doppio. Va bene, grazie Eligi, grazie assessore, e grazie per la bella iniziativa. Speriamo che qualche amministratore lungimirante vi segua. Grazie. Grazie anche a Chiara Albicocco, ci fermiamo qui per questa sera. Appuntamento a domani.